Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. È iniziato per gioco e oggi dà da mangiare a 8 persone. Cosa non troppo sorprendente se consideriamo che questa avventura imprenditoriale ha una storia di quasi 10 anni, anche se lui, l'imprenditore, di anni ne ha solo 23. Un po' più sorprendente invece è che questi 8, i suddetti 8, campino distribuendo cultura gratis. Parliamo di Oil Project e lui si chiama Marco De Rossi. Buonasera Marco. Buonasera a tutti. Allora, com'è cominciato Oil Project e che cosa è diventato oggi? È iniziato non come azienda, ma come un gruppo di 14 anni all'epoca, nel 2004, che volevano condividersi le loro competenze di informatica. Eravamo appassionati di programmazione di Linux, ci siamo creati da soli un sito dove ognuno potesse raccontare, condividere con l'altro le sue competenze. E intorno a questo gruppo di ragazzi, eravamo 10, si è creata una community, 100, 1000, 10.000, intorno alla passione dell'informatica. E un giorno ci siamo detti, perché non provare a spostare questo modello della condivisione libera della conoscenza, in cui chiunque, anche solo per 2 ore all'anno, condivide quello che sa e le persone gli rispondono con delle domande, perché non provare anche con le altre materie, quindi le materie scolastiche che tutti noi abbiamo fatto, quindi letteratura, filosofia, chimica, biologia. E allora nel 2011 ne abbiamo fatto un'azienda, una startup, come è di moda sì. Dire adesso, che pubblica un sito web in cui chiunque, qualsiasi giorno, a qualsiasi ora, in qualsiasi luogo, può studiare quello che vuole su delle lezioni, speriamo di qualità, gratuitamente. Ecco, queste ci sono proprio, insomma, tante lezioni con video, con testi, cose di questo genere, esercizi, si possono sì, fare delle domande. Da video, testi ed esercizi. Quindi la persona studia autonomamente, tra l'altro sempre più in mobilità, ormai il 40% certo. Dei nostri utenti studiano o da tablet o da smartphone, certo. E poi può verificare le sue competenze con degli esercizi. Con degli esercizi. Capire cosa ripassare. Ecco, i contributi, diciamo, da dove arrivano, i contenuti da dove arrivano? Sono fatti dalla nostra redazione interna o fatti da nostri collaboratori, tipicamente o docenti delle superiori dell'università o magari professionisti, quindi o esperti, oppure sono inviati dalla community e noi li pubblichiamo dopo una attenta revisione qualitativa. Ok, d'accordo. E senti, come state in piedi? Stiamo in piedi adesso con la pubblicità, okay. Quindi fa parte della nostra mission erogare i contenuti gratuitamente e quindi li monetizziamo con la pubblicità, che è un settore che non sta passando buoni periodi però funziona. Siamo sufficienti da tenervi in piedi. Spero anche per voi. Sì. Ci puoi dare qualche numero? Quanti sono gli utenti? Adesso è utilizzato da 500.000 di persone al mese. Mamma mia. E da 2 settimane siamo online con un nuovo sito, che però sta andando sempre meglio, perché finalmente, appunto, come vi dicevo, è mobile. È social, quindi ogni utente può fare follow ai suoi compagni di classe e vedere in tempo reale cosa stanno studiando, come studiare con loro, potremmo quasi dire, e guadagnare punti con le azioni che fa. Quello che vogliamo cercare di fare è portare il digital learning ad essere non un'esperienza solitaria in cui la persona nella sua stanzetta studia da solo, perché sennò sarebbe più divertente la scuola fisica, ma cercare con gli strumenti che internet offre di rendere anche questa esperienza sociale, cioè di sentire che non sei da solo, come effettivamente è per i numeri che vi dicevo prima. Di recente ci siamo occupati di una serie di fenomeni, MOOCs per esempio, c'è un grande proliferare di questi, diciamo, corsi online, poi si può discutere più o meno della qualità, sembra quasi che stia diventando una commodity il contenuto, no? Che riflessi immagini possa avere tutto questo? Una parte della didattica può diventare in parte una commodity. Abbiamo già dei feedback di scuole con insegnanti che fanno studiare a casa una poesia su Oil Project. E quindi si studia come sono le rime, le figure retoriche, la metrica, e poi in classe si fa l'approfondimento, si risolvono i dubbi, si fa i paragoni con altre poesie. Questo cosa ci porta? Ci porta a pensare che la formazione in aula rimarrà e come? Semplicemente sarà abbinata da un'esperienza digitale, complessivamente i ragazzi studieranno di più, studieremo di più a casa il pomeriggio e le cose verranno davvero ad integrarsi. Detta schietta, come dire, secondo il mio modesto parere non ha più senso che ogni anno ci siano decine di migliaia di docenti che tengano la stessa lezione, che tengono uguali tutti gli anni da 20 anni sulla parafrasi di una determinata poesia. Dobbiamo davvero sfruttare il tempo vis-à-vis in aula per quello che vale di più e che non può essere fatto altrove altrimenti. Per esempio per personalizzare la formazione, in questo modo diventa possibile, cioè la parte standard la si fa erogare, come dire, alla rete, in buona sostanza, e poi si lavora coi singoli sulle loro attitudini e quant'altro. Differenze, criticità, esatto. concordo. Grazie, grazie Marco De Rossi. Grazie a voi. Per chi fosse interessato, www.oilproject.org. Noi ci sentiamo domani.